Sabato 7 novembre, presidio in solidarietà con le persone rinchiuse nel CIE di Ponte Galeria. Ahora che lo sabes, i CIE sono centri di detenzione in cui le persone immigrate vengono portate perché senza documenti in regola, rinchiuse in attesa di essere identificate e poi espulse dall'Italia. Nelle ultime settimane sono state tante le deportazioni, ma anche tanti gesti di protesta e di resistenza di chi viene chiuso dentro quelle gabbie. Per questo torniamo davanti alle mura del CIE di Ponte Galeria, per un mondo senza frontiere, libertà per tutti e tutte. Sabato 7 novembre, appuntamento alle ore 15 a Stazione Ostiense per andare insieme davanti le mura del CIE di Ponte Galeria. Dalle ore 16, presidio solidale. Ahora que lo sabes, que lo sabes.